GR Europa. Regolamentare il settore bancario in modo da avere una netta separazione tra le banche d'affari e quelle di deposito, una misura urgente e necessaria per evitare nuove crisi finanziarie. Gli Stati Uniti sono andati avanti su questo fronte, l'Unione Europea e l'Italia seguono la stessa strada. Lo ha sottolineato Gianni Pittella, vicepresidente del Parlamento Europeo, in occasione della sua missione a Washington. Non si possono adoperare due pesi e due misure, altrimenti si rischia di far venir meno il principio di uguaglianza che è alla base dell'Unione Europea. Così l'europarlamentare del PDL, Licia Ronzulli, dopo l'apertura del commissario agli affari economici Olli Rehn, ha 2 anni in più di tempo per Parigi e Madrid per riportare il deficit sotto il 3%. Se vale per loro, deve valere per tutti, ha sottolineato l'eurodeputata. Il vicepresidente del Parlamento europeo, il popolare austriaco Otmar Karas, chiede le dimissioni del direttore generale dell'Olaf, che è l'ufficio europeo per la lotta antifrode, Giovanni Kessler. Il trentino, già magistrato e parlamentare, è accusato di aver condotto un'indagine con metodi discutibili sull'ex commissario UE John Dalli, che nell'ottobre scorso fu costretto a dimettersi per un'intricata vicenda di presunta concussione con una lobby del tabacco. L'agente di calcio belga Daniel Striani si rivolge alla Commissione europea contro l'UEFA e chiede che si dichiari nulla la disposizione del pareggio di bilancio, il cosiddetto fair play finanziario, perché viola uno dei principi fondamentali dell'UE, quello del libero movimento di capitali, di giocatori e di servizi. A rappresentare Striani è Jean-Louis Dupont, il legale che assistette Bosman in una storica sentenza che liberalizzò la circolazione di giocatori nei campionati europei. Istituzioni UE aperte ai cittadini per l'annuale festa dell'Europa. Il 19 maggio sarà la volta del Parlamento europeo di Strasburgo. L'iniziativa è legata anche all'anno europeo dei cittadini 2013, che nasce per diffondere tra gli europei la consapevolezza dei propri diritti. E con questo abbiamo concluso l'appuntamento a domani, poco dopo le 15. GR Europa è sostenuto dal Parlamento europeo. Info su radio24.it.